C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto? Michele Caruso, troglodita muori. Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista. Michele Caruso, troglodita muori. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cari amici, buona giornata. Sono stato per una settimana in Tunisia perché non si può stare più in Italia. La gente sta male, la gente si suicida, le aziende chiudono, non chiudono i negozi, chiude tutto, le attività ormai sono in totale fallimento, le istituzioni non contano più nulla. La Corte Costituzionale fa quello che vuole, ovviamente non è eletta dal popolo, ma è eletta da questi partiti, dal Presidente della Repubblica, e un organismo completamente nelle loro mani. Mattarella! Insomma, è finita la democrazia e la libertà nel nostro paese. Mattarella! Pronto? Domani il Senato, la giunta per le immunità del Senato, eccetera, eccetera, eccetera, decide se devo andare a processo perché sono un criminale o se ho agito da ministro bloccando gli sbarchi perché era mio dovere farlo. E io allora chiederò domani a chi deve votare, e quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore: votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in tribunale, la chiariamo una volta per tutte. E sarà un processo contro l'intero popolo italiano. Matteo Salvini! Perché è anche una scelta di valori, perché di là ci sono la rabbia, il rancore, l'invidia sociale, l'annullamento delle tradizioni. Di qua ci sono i valori che sono la mamma, il papà, la famiglia, il parmigiano. Merdo Targo, senti coglione, vuoi vedere che io quell'altra gamba sana te la faccio diventare zoppa insieme all'altra? Brutto pezzo di merda, te l'ho già detto, tu non devi nominarmi, perché tu sei una merda, le merde, che io con le merde non ho nessun legame, nemmeno verbale, capito coglione? Io ti spezzo la gamba, coglione! Malato da Mantova, quanto prendi di reddito di cittadinanza? Quanto costi alle casse degli italiani, malato da Mantova? Siamo tra i primi, sicurezza, siamo tra i primi, lavoro, abbiamo la miglior disoccupazione che ci sia in Italia, cosa vuole di più? Parenzo, trattengo tutta la notte l'aria e al mattino sono devastato. Ascolta qui. Oh. Oh yeah. Ai. È successo? No, dico un inizio terribile. Ai, questa musica metal, urla, gente che urla, che blatera. Ragazzi miei, mamma mia, che fine settimana che è stato con queste polemiche incredibili su Sanremo. E poi ovviamente le sardine, le signore, sai, io non so da dove iniziare, lo sai? La piazza, no, ma non me ne frega Bologna, nulla a me. Non gliene frega niente. Cioè non me ne frega niente. 40.000 persone in piazza, sei tu il primo a dire la piazza non conta, no, perché 40.000 anche Mussolini persone senza bandiere, e anche 40.000. Hitler riempivano le piazze, sì, ma è un sei il primo un po' a dirlo, sì, la gente e allora era obbligata rompe, ad andare, ma riempivano peraltro le piazze, qualche migliaio di persone con i concerti, dai su, con i concerti. Beh, sì, qui c'erano, non c'era state un concerto però gratis. Ti posso, come no? Beh, ma sì, come no, concerti gratis, gente c'erano che si esibiva gratis. Ma no, c'era un impegno politico, c'era l'idea, non andare a sentire il concerto. A proposito di artisti pro sardine, a proposito di artisti prostatini, iniziamo subito con Manuel Agnelli. Sai chi è Manuel Agnelli? Come sì, no? Sai certo. chi è? No, lo sai, te lo devo dire, ti devo fare la biografia? Ti devo leggere la biografia? No, non c'è bisogno, no. Allora, Manuel Agnelli, molti lo conoscono, altri non lo conoscono. Più uno giovani lo conosco ultimamente, ha fatto il giudice di X Factor. Però questo Manuel Agnelli, allora, senza dirlo, a me lo sai che cos'è che non mi piace? Ognuno può avere tutte le idee del mondo. Meno male. Le pro Salvini, contro Salvini, fortemente contro Salvini, radicalmente contro Salvini, essere comunista, fascista, non mi interessa. Però, amico mio, lo devi dire chiaramente. Non è che puoi evocare Göring, che era un dirigente nazista, lo sappiamo, ministro della propaganda, se no era Goebbels, non mi ricordo. No, insomma, Goebbels era quello. Era Goebbels, vabbè, Göring uguale, sempre propaganda facevano, e non fare il nome, e non fare chiaramente il nome di Salvini o della Meloni. E dai, su, vi leggo un pezzo di Göring. E perché leggi un pezzo di un nazista in piazza con le sardine, e no, quando dice sulla paura, bisogna infondere la paura, eccetera, eccetera. Sì. Perché lo fai? Perché ti riferisci a quelli, ai cosiddetti sovranisti, ai cosiddetti populisti. Chi fa della paura una cifra di governo in un contesto diverso. E dunque ma stai chi... paragonando chiaramente Salvini a Göring o la Meloni a Göring. Dillo! Dillo, no, che sono nazisti! In alcun modo, Dillo, come dillo, abbi il coraggio! Tira fuori il coraggio! Ma più di dire così che deve dire? Dai, scusami. Tu lo critichi perché critica Salvini, solo ma per questo. Ma figuriamoci, manco lo nomina Salvini, manco il coraggio, eh? Senti. Ma che coraggio ha dato in piazza le sardine contro i sovranisti? Contro i sovranisti, appunto. Più di quello che deve fare. Vai. È una cosa un po' particolare, la dichiarazione di Hermann Göring, il fondatore della Gestapo, eccolo là, Gestapo, al processo di Norimberga. Non so se ci trovate nei paralleli, io sì. Poi legge questo pezzo di Göring, questo pezzo del signor Göring. Parallelismi di che cosa? Vediamo cosa diceva, sentiamo. Ma se no, c'è adesso un... adesso lo sentiamo, non ti preoccupare. Vediamo se c'è tempo un legame. Tempo al tempo. Santuzzo? Educare le persone a usare i social. Una delle proposte di San Minchia, Santuzzo. Non male. Ogni questo. Volta non questo so mai. Giusto. A educare le persone a usare i social. Sì, questo lo dicono anche alla Silicon Valley. Da 10 anni, appunto. Lo dicono anche alla Silicon Valley. Cosa vorrebbe fare lui? Lo dicono alla Silicon Valley. Lo dicono. Devono educare. Hanno inventato i social, dicono che bisogna educare a usarli. No. E quindi lo dice una sardina e si ridicolizza. Ma che vuole Santuzzo? Lo dicono alla Silicon Valley. Ma che vuole Santuzzo? Ma che vuole da noi? Lasci fare alla gente che ne sa. Lasci fare agli specialisti. Lasci fare ai tecnici a educare il social. Ma chi cazzo sei per educare la gente a usare i social? Politica, ma mi chi pare. Sei per educare le persone a usare i social? Una persona che ha portato 40.000 persone sei? In bassa in piazza. Questa proposta si articola in tre dimensioni. La prima è una formazione, soprattutto per gli utenti più fragili. Pensiamo agli anziani, pensiamo ai giovani che si apprestano per la prima volta ad avere a che fare con i social, che al primo click vengono indirizzati destra-sinistra, sovranismo, ambientalismo. Cioè deve essere... Parla degli algoritmi, le persone anche solo da un punto di vista logico. Ma che è una lezione di informatica? Parla ma che roba è una lezione parla di informatica? Di cose che tu non sai, ma cioè di che degli parliamo? Algoritmi. Ma lo so benissimo. E allora? Ma che è una proposta? Ma che roba sì, è? Sì, è una proposta, mi sembra. Mamma mia. Solo che tu, in modo ideologico, ogni cosa dai, che proviene su. Da là per te è una sciocchezza. Ma ogni ma non cosa. C'è una roba normale, ogni. Dai. Sì. Ma fammi una proposta. Insegnare normale. A usare i social. Ma certo. Che roba è? Ma è che una cosa giustissima. Il tutor per gli anziani? Ma che vuoi fare? Ma che proposta è? Insegnare ad avere la consapevolezza. Di che coglioni, cos'è quel mezzo? Ma non rompere certo, i coglioni. Assolutamente. Abbiamo iniziato a lavorare su una tematica che è quella della democrazia digitale o in qualche modo dello squadrismo digitale a cui noi in prima persona siamo stati sottoposti e non siamo sicuramente gli unici. Lo squadrismo digitale. Ragazzi, ma di che sto dunque, ma di cosa parliamo? Ma non me ne frega un cioè, cazzo. Non te ne frega niente, prenderli in giro è la classica tecnica. Ma io del prendo dire in giro chi cazzo mi pare, non prendo in giro, prendo in giro chiunque. Piano piano però, chiunque. Hanno fatto la loro strada, si no, sono non fatti. Lo so, sono ospiti delle trasmissioni, prendo dei pezzi no, e li piglio sono, per il culo perché nascono prima delle trasmissioni, cioè non sono nate nelle trasmissioni loro. Mamma mia che noia, dici sempre le stesse cose. Mamma mia, Salvini contro Junior Kelly. Vuoi sentire tu perché tu li attacchi allo stesso modo? Vuoi sentire Salvini contro Junior Kelly? Sì, Salvini contro Junior Kelly. Allora, sapete, vediamo se dice una cosa nuova. Forse tutti sapete chi è questo Junior Kelly. Junior Kelly è un, o forse non lo sapete, un rapper romano il quale è invitato a Sanremo nel passato, ha scritto una canzone controversa per la quale adesso qualcuno vorrebbe cacciarlo via da Sanremo, una cosa ridicola. Ha fatto anche un video però che forse in pochi hanno visto, che si chiama Strega, la canzone in cui si chiama c'è Strega. Una donna, una ragazza che è legata ad una sedia imbavagliata con gli occhi bendati e lui canta questa amabile canzoncina intorno alla signorina. L'ho ammazzata, le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera. Non è soltanto diciamo la rimanda a casa con le calze rotte eccetera eccetera. Parla di Troia, insomma le cose che ci sono in 70% dei rapper, trapper come cazzo si chiamano, hanno queste cose qua, moltissimi giocano su queste cose qua. Dopodiché a Sanremo ci saranno ospiti anche altre persone, altri artisti tra cui Masini, che nel passato avevano scritto delle cose simili, per cui di cosa stiamo parlando? Masini, cosa o cacciano tutti, adesso fra poco te lo leggo, cioè nel 95 aveva scritto una canzone, eccola qui, bella stronza, bravo la corte. Sì, ma non incitava alla violenza. Ma non perché questo incita alla violenza, che vuol dire? Se è incitazione alla violenza ci sono le leggi. Ma no, qui c'è il codice stupro, penale, però. Un magistrato. Ma no, ma qui parla di una stupro, però. Allora, cioè, qui si parla semplicemente 95. Nessuno gli vieta di cantare. Nel 95 mi verrebbe Masini, ospite anche lui a Sanremo, mi verrebbe da strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina. Di cosa stiamo parlando? Cacciamo pure lui per una canzone scritta nel 95? È una puttanata, evidentemente. O comunque, se non volete invitare questi qua, informatevi prima delle canzoni questo che hanno scritto. Informatevi tema, prima. Esattamente. Amadeus e compagnia cantante. Un'etichetta importante che è la Sony, se non ricordo male. Ma che c'entra? Che gli ha fatto. No, voglio dire, quindi la questione riguarda anche le grandi. Vabbè, ma major, sono altre no? cose. Ma che producono senti, questo tipo di canzoni. Perché la questione è diventata politica, senti. Qualche genio invita a Sanremo sto tizio, che io non avevo mai sentito nella vita, che in una sua canzone, anzi in più canzoni. Mi si scusi l'orario che ci sono dei bambini, però parla di donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Ecco, io non voglio che a nome della musica italiana diano il mano al microfono a un tizio del genere, che parla delle donne come troie. Lo fai a casa tua, nella tua cameretta, non lo fai in diretta sulla Rai e non lo fai a nome della musica italiana. Siamo tra i primi, sicurezza, siamo tra i primi, lavoro, abbiamo la miglior disoccupazione che ci sia in Italia, cosa vuole dire? La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate all'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Luciani, ma alle persone che guardano Sanremo non gliene fotti un cazzo se le vallette sono brave, intelligenti, eccetera. Gliene frega solo se sono buone. Quindi Amadeus c'ha ragione. La valletta di Sanremo deve essere buona e possibilmente pure un po' svestita. Figa Cruce, ma come fai a dire chi se ne frega delle abilità comunicative di Amadeus? Quello viene pagato una cifra, cazzo, sembrava un principiante, ma cazzo, ma preparatelo un discorso, due cose su ciascuna, ti leggi le prime due righe di Wikipedia, figa le basi, oh. Comunque ragazzi, parlando per qualche secondo di una cosa che riguarda la politica, che no, è lontanissima. Scusa, Salvini, l'hai fatto sentire, ma Salvini che dice, lo fa a casa sua, ha fatto un'evidente copia e incolla dei suoi precedenti discorsi, quando dice gli immigrati lo facessero a casa loro, ormai va è un cliché continuo. Vabbè, però a prescindere da che Salvini, vuol dire a prescindere lo canta da Salvini, a casa sua? A proposito di Salvini, dopodiché va benissimo a Salvini anche quello piccola, lì. Piccola parentesi sulla questione della nave Gregoretti, no? La cosa è incredibile, proprio 5 secondi, una cosa che ti appassiona ma non appassiona nessuno no, italiano, invece, nessun italiano è interessato, nessuno, solo tu sei interessato. Allora, solo tu e quattro amici tuoi. Il problema è molto semplice. E tutti quelli che si occupano di questi temi. La gente ragiona in maniera semplice. Come ragionano le persone? Processo a Salvini, sì o no? Cioè, Salvini va processato, sì o no? Questo deve decidere il Parlamento, no? Prima c'è il passaggio alla Giunta per l'autorizzazione a procedere. Ora, ti pare normale che, per motivi chiaramente politici, ma quello è assolutamente all'ordine del giorno, la Lega decide di mandare a processo Salvini, e infatti quello è successo oggi, e la sinistra e il governo non votano? Ma che cazzo vuol dire? Volete il processo? Perché ci sarà dato il voto al Senato. Ma volete il processo? Allora andate a votare a favore del processo. La Lega ha votato pure a favore del processo. Andate anche voi a votare a favore del processo. Ma ieri diceva di no. E invece non adesso hanno votato. Devi raccontarla tutta. Ma perché altrimenti così. Ma fanno propaganda anche loro. Fanno propaganda. Questo è sicuro. Ma la cosa è molto più divertente. No, la cosa l'hai ridotta a una banalità perché vuoi difendere Salvini. Ed è legittimo. Ed è anche ammirevole. Ma che stai dicendo? Stai facendo passare dici? Il messaggio. Sì, è ammirevole. Ma che sei bravo, dicendo? È ammirevole. Vuole andare a processo? No, non voleva. Tant'è che sulla nave 18. Ma adesso che è un vuole caso andare analogo. A processo? No, non solo vuole perché ci sono le elezioni. Ma vuole andare a processo? No, solo che hanno perché deciso ci sono oggi? Le che cosa hanno votato? Ma che hanno votato? La tua difesa ma che hanno è ammirevole. Votato oggi? La tua difesa ma è ammirevole. Ma cosa hanno votato? Ma ti assicuro che anche i leghisti stessi te lo dicono. L'hanno fatto semplicemente sulle elezioni di Emilia. Quindi è ammirevole il vostro tentativo. Ma io non c'ho nessun piccolo dettaglio. Che sulla nave 18, sulla nave 18, lui diceva io non mi farò processare. Sì, ma adesso perché adesso io hanno sono votato un politico, a favore del processo? Ho chiuso i porti. Hanno votato a favore del processo adesso. È tutto strumentale. Benissimo, ma è tutto sul PD a favore del processo. Prendendo in giro le istituzioni. Ma il PD peraltro, a favore del processo il giorno prima. Ma il PD a favore del processo che ciò accadesse. Ma il PD a favore del scontro politico elettorale. Ma il PD a favore del processo no. Il PD a favore del processo no. Assolutamente e sì. E perché non si sono presentati a votare a favore del processo? Perché l'uso strumentale che Salvini ha fatto della commissione è evidente. Il giorno prima dice no, poi ci ripensa e dice aspetta che ci sono. Però, ragazzi, comunque la cosa è ammirevole perché sulla nave 18 la invece cosa, si è fatto salvare. La cosa strepitosa è il nostro amico generale Pappalardo. Il nostro amico generale Pappalardo, dopo che ci ha rotto le balle per un po' sull'Italia, le elezioni eccetera eccetera, dice che si vuole trasferire in Tunisia. In Tunisia, secondo voi in Tunisia quanto si paga sulla pensione? Cioè quante tasse si pagano? Il 20%. Il direttore di una banca in Tunisia prende 1500 dinari. Un poliziotto in Tunisia prende 800 dinari. Il nostro pensionato prenderebbe 9000 dinari. Che mi state guardando a bocca spalancata? Sì, prenderebbe 9000 dinari. E con 9000 dinari si può permettere la casa di lusso, la domestica che lavora in casa, coloro che lo assistono, di tutto si può permettere. 42 anni ho lavorato, mi hanno tolto i soldi per la mia pensione, alla fine mi ritrovo senza soldi perché mi portano via il 50% di tasse, a me e a tutti gli altri. Non si può vivere in queste condizioni, cari amici. Grazie al cielo in Tunisia c'è questo centro di assistenza degli italiani, meraviglioso. Io dal 1 marzo vado a vivere lì, 6 mesi starò lì e 6 mesi verrò in Italia. Mi dividerò, ma siccome avrò la residenza in Tunisia, i soldi al lordo arriveranno in Tunisia. Risparmi i soldi e negli altri 6 mesi comincio a vivere meglio in Italia. Vivo meglio in Italia. Signor Pappalardo, 1500 dinari equivalgono, ho fatto il conto, a 481 euro, pressa poco. 1500 cosa sono 481 euro? Quindi se il costo della vita in Tunisia, cioè se lui dice che chi guadagna l'equivalente di 480 euro al mese Vabbè, ha anche la domestica in casa, per capire, per entrare nella testa del coglione, perché no, sennò uno Pappalardo va in Tunisia, lui va in Tunisia, ma mi piace verificare pensioni. Una cosa, scusami, lui ha detto che in Tunisia lo stipendio medio è di un banca, non so chi è, di un poliziotto, è 1500 dinari. Sono andato a vedere. Vabbè, allora 1500 dinari equivalgono a 480 euro italiane. E lui dice che chi ha 1500 dinari può avere anche la domestica a casa, corretto? Bene. Facciamo il conto di quanto guadagna il generale Pappalardo. No, lo no? dice con i soldi che lui avrebbe dall'Italia. Che dici? Esatto. Quindi vuol dire che lui potrebbe avere 7 persone di schiavi come dipendenti, sì, costruirsi una grandissima reggia, perché se l'equivalente di 480 euro mese, lui ne avrà 3.000 almeno, no? Al mese, 4.000 immagino, com'è il generale dell'esercito. Di più. Bene, quindi va lì e si prende la sua enorme villona. Ma per questo ci vuole andare, per fare la vita da babbo. Chiaro, Andrea da Milano, chiaro. Vai Andrea. Fa il nababbo in Tunisia, vai, è un genio. Andrea, vado eccomi. Però. Dimmi. Vada subito. Eccomi. Parliamo di robe serie, che Parenzo se no travisa la realtà. Parliamo di fica. Dimmi. Ma con chi parlo? Col Cruciani. Sì, dimmi Andrea, vai, forza. Ciao. No, allora, velocemente, si parlava dell'Amadeus, che il poverino ha detto male un concetto però corretto. alla fine gli unici che si sono scandalizzati perché c'è della figa a Sanremo sono i sardiniani, quelli del Santelli, che vanno in piazza a fomentare odio. Ma veramente non si sono scandalizzati. Non detto una parola, sì, ma quella parte lì, ma gli unici che fanno. Ma non hanno detto una parola, però, francamente. Allora? Ma sì, ma è meglio che non parlino, perché loro, in fondo, quel Santelli, anche le dichiarazioni che ha fatto prima, sono dello stile colpirne uno per educarne cento. Allora io mi chiedo perché il Parenzo continui a sostenere certa gente. Ma chi tipo? Ah, gli piace questa mobilitazione popolare al Parenzo. Ma come mi dire, divertono. Gli piace questa mobilitazione, la gente che parla di concetti. Mi divertono perché sono dei clown. Ma io non penso che tra quelle 40.000 persone ci siano 40.000 clown. Ma si diverte perché lascia stare i 40.000 che seguono un po' l'onda. Andrea, lo sai perché li appoggia? Non è che li appoggio, mi piace l'idea perché di un movimento che è nato così. Sì, così spontaneamente. Poi se devi dire una cosa. Cazzo, ma che spontaneamente? Ma chi ti muove 40.000 persone? No, ma scusi, forse lei dimentica come sono. Che il Movimento 5 Stelle muoveva le piazze perché andava a Grillo a dire quel cazzo. Così è nato, certo. Ah no, perché chi c'è dietro? Un burattinaio? Dietro Beppe Grillo c'era un burattinaio. Assolutamente, lo sai meglio di me. Questo non l'ho mai sostenuto. Potito da Roma, senti, Potito da Roma. Poveretto, questo. Vai. Signor Potito. Dimmi, Potito. Buonasera. Dimmi, vai. Innanzitutto non chiamo solo a nome mio, ma anche nella mia qualità di portavoce nazionale del Movimento Uniti per la Destra, i Pinguini. Ah, i famosissimi, famosissimo movimento. No, i Pinguini che a un certo punto vennero cancellati da Facebook, non mi ricordo che è successo. Esattamente, abbiamo incontrato Che vuoi, Potito? Non ho capito, dimmi. Allora, abbiamo il diritto alla par condicio, non l'abbiamo ancora rivendicato, ma è molto grave. Ma non ho capito, par condicio per cosa siete stati cancellati da Facebook? Intanto partiamo dalle cose basiche. Non dobbiamo fare qui un processo. Siete stati cancellati per le cose violente che avete scritto, evidentemente. Innanzitutto noi abbiamo con estrema eleganza... O razziste, non lo so. Abbiamo con estrema eleganza... Abbiamo sostenuto e solidarizzato quando la pagina delle sardine è stata sospesa. Vabbè, da Potito, Facebook. Che cosa vuoi da noi stasera? Qui andiamo di fretta, noi possiamo sentire queste robe. Voglio ringraziarvi già per questa breve ospitalità. Ma vai a fare non il culo, c'è va, fermo là, non c'è nessuna ospitalità. La Zanzara. Io ho l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda, all'abbiato, guarda di mio collo, guarda Donald Trump, mamma mia, mamma mia, Donald Trump, mamma mia, mamma mia, Donald Trump, oh, say it to Donald Trump, oh, this is just, sempre casino, sempre casino, Iran, anche America, sempre casino. Sicurezza, siamo tra i primi. Eccoci. Cruciani, stai ridicolo, cazzo. No, stai, Paco, guarda, Paco, stai ridicolo. È una roba incredibile. Dimmi, Pacone, dimmi. Per te ormai Salvini è tutto. È tutto. Quando mai? Nessuno non deve parlare male di Salvini. Qualunque cosa che fa Salvini va bene. Tu devi difendere Salvini. Qualunque cosa che fa, stai diventando ridicolo. Io sono sicuro che a te, Salvini, la darai anche alla tua donna. Perché tu ami Salvini, tu hai nel cuore Salvini, nessuno non deve dire niente, ce l'hai con tutti, basta solo che uno parla male di Salvini o della Lega, ti incazzi, ma è una roba incredibile, ma che cazzo hai da difendere, ma cosa hai da difendere, ma vergognati, mon ami, ti devo avere un po' di dignità. poteva avere un po' di dignità, cazzo. Pacone, ma chiama qui Pacone invece di mandare messaggi. Paco, spade di fuoco da Belluno. Chiama qui che ti rispondo sul serio. Chiama che ti rispondo. Hai mandato 3-4 messaggi, sempre le stesse cose, dici, sempre le stesse cose. Però un attimo di pausa, ragazzi, un attimo di, direi quasi di silenzio. È una roba estremamente seria. Oggi è stato ritrovato sul lago di Seo un cadavere. Dopo poche ore si è avuta la certezza, anche se non c'è nulla di ufficiale ancora, che si tratta del cadavere di Rosanna Sapori. Una tragedia. Una persona che voi che ascoltate questa trasmissione conoscete, è stata giornalista di Radio Padania, è stata giornalista anche nelle televisioni private, credo che fosse milanese di origine, da diverso tempo aveva questa tabaccheria in provincia di Bergamo, era sparita il 20 dicembre, io sono stato in contatto a lungo con i carabinieri della zona e poi per volontà anche dei parenti abbiamo fatto solamente un appello al rientro quando siamo tornati in onda il 6 gennaio. E purtroppo tutti i timori che io avevo di una sparizione troppo lunga per essere, diciamo, solamente casuale solamente voluta per sparire sono stati confermati e oggi è stato trovato il cadavere di Rosanna al 99%, anzi lo possiamo dire, è certamente il suo cadavere. L'ipotesi più probabile è quella di suicidio. Io ti abbraccio, Rosanna, ovunque tu sia, non so dove tu sia, ti abbraccio. Sei stata con noi per un periodo, ti abbiamo voluto bene, abbiamo discusso, ci siamo divertiti moltissimo, anche con Gottardo. Volevi bene a questa trasmissione, noi ti volevamo bene, chi combatteva con te, ma questo non ha nulla a che vedere con la morte, ma ci mancherebbe, non ha nulla a che vedere con una scelta che tu hai fatto da tempo. Sembra che non, io non lo sapevo, che non stessi molto bene, cioè che avevi dei problemi, non sapevo nulla di questa cosa qua, cioè sapevo che avevi avuto dei problemi, ma non eravamo in una tale intimità da poterti chiedere come stavi o come non stavi. Conservo gelosamente e non mando in onda, naturalmente ne ho mandato in onda solo uno il 6 gennaio, tutti gli ultimi messaggi che mi hai mandato, che sono ovviamente a disposizione delle forze dell'ordine, di chiunque abbia bisogno eventualmente di consultarli. Ti abbraccio e che ne so, che si dice in questi casi? Riposa in pace. Abbraccio i figli e chiunque le sia vicino in questo momento, tutti i suoi parenti più stretti. Ciao Rosanna, ciao. Ragazzi, Sara da Milano, dai, Sara da Milano. Cruciani, buonasera. Senti, voglio dire una cosa. Le sardine ci hanno veramente rotti i coglioni. Adesso veramente ci hanno rotto. A me lo dice. A me le lo uniche dice. Adesso le hanno dette loro. Salvini allora. Non ha mai detto impicchiamo qui, a morte qui, cancelliamo qui. Non è che loro dicono a morte Salvini. Il cartello cancelliamo Salvini. Cancelliamo Salvini è un titolo di Repubblica. No, non c'è nessun cartello. Cancellare Salvini. Cancellare le leggi Salvini. Cancellare il titolo era cancellare le leggi di Salvini. Il titolo era cancellare Salvini, non dire cazzate. Le sardine hanno detto si riferiva a un'intervista ed è uguale al cancellare la Fornero di Salviniana memoria, ma non è questo. Ma non vogliamo l'odio? No, l'odio loro lo stanno esprimendo. Ma loro chi? È un titolo di Repubblica. Sono d'accordo, ma lascia perdere, non sta parlando del titolo di Repubblica. Allora Sara sta dicendo una cosa, che l'odio vero c'è nelle piazze delle sardine. Nelle piazze delle destre non c'è odio. Io sono d'accordo con Sara. C'è delle piazze delle destre, c'è verso i migranti, verso quelli che accolgono. Questo c'è un amore. Altro discorso. Sto dicendo che la rachete. C'è amore invece. Le minacce di stupro alla rachete dimostrano che invece c'è amore. Non girare la frittata. La capitana sbeffeggiata dall'ex ministro dell'interno, c'è amore invece. È curioso. Sono categorie curiose le vostre. Quindi c'è amore. Per la rachete ci fu amore, quindi, da parte delle destre italiane. Quando la resero bersaglio di minacce di stupro pure. Fai parlare la gente. Fai parlare Sara, su. Fai parlare Sara. Per carità, capisco che la verità vi dia fastidio, però. Che ora ci sia amore nelle piazze della destra e odio in quello delle sardine è un racconto curioso, diciamo. Parenzo, tu non sai neanche dove sta di casa la verità. Disse la signora che vota Salvini. La disse la signora che vota Salvini. Doveva rispettare l'altolà della Guardia di Finanza. No, ma ecco l'Italia dell'amore. Ecco l'Italia dell'amore. Contro le forze ecco l'Italia dell'amore. Bacioni, signora, bacioni. Bacioni, bacioni. Ecco l'Italia dell'amore. Eccola qua. Guarda che la ecco l'amore. L'ennesima figura di merda. Ecco l'amore. L'ennesima sta facendo. Ecco l'amore. Pure le parolacce. Ecco l'amore. Ecco l'amore della nonnina. Non sono parolacce. Non sono parolacce. La sinistra. Ecco l'amore. Come lotta, la nonnina. Come lotta, ecco la l'amore della nonna. Come lotta, Nicolò da Bari. Nicolò da Bari. Ecco l'amore della destra. Nicolò, vai, Nicolò. Buonasera. Dimmi, Nicolò, dimmi, dimmi. Salve, senta, io volevo intervenire riguardo al piercing. Dimmi, dimmi. Al piercing? Io dico piercing. Si fa il piercing, si fa il piercing è la una pratica. La pioggia dorata. Ah, sì, quella evocata dalla signora Marina La Rosa, esatto, la scorsa settimana. E volevo distaccarmi dalla sua opinione perché lei diceva che staccarmi gli uomini lo fanno per sentirsi dominati. Io principalmente. Beh, dipende, amico mio, dipende se sei sotto o sei sopra. Insomma, se sei, se sei prendente, se sei passivamente. Ah, tu lo fai se sia passivo che attivo, sì, da questo punto di vista. Cioè. Ma con chi? Con la tua moglie, la tua fidanzata, oppure in generale? No, con... no, io sono un ragazzo, diciamo che è raro ragazzo, trovare ragazzi. Che ragazzo, cioè, non hai una compagna fissa? E ride. Non hai una compagna fissa? Non ho una compagna fissa, esattamente. Cioè, allora, pratichi con chi capita, con chi vuole, immagino, no? Sì, con chi mi acconsente, sì, perché con chi ti acconsente. E ti piace essere col piercing, sia passivo che attivo. Chiedo scusa, se lei fosse in Emilia Romagna, fosse cittadino in Emilia Romagna, domenica, per chi voterebbe lei? Domenica. Mi aspettavo questa domanda, ecco, Parenzo. Sì, sì. Non lo so sinceramente, però le posso dire che all'ultima elezione ho votato 5 Stelle. Non ho altre domande, Non ho altre domande. Scusami Nicolò, come mai ti piace questa pratica? E ride. Secondo me, cioè, a me piace proprio l'urina. Non te lo so spiegare. Scusa, ma sei in viva voce o con l'auricolare oppure sei dentro una busta di piscio, no? Per curiosità. Cioè, no, io sono in stanza normale, però sento il mio eco. Senti il tuo eco, avrai qualcosa di acceso? Cioè, e ride. Ma che cazzo ride questo qua? Togli l'auricolare! Non ce l'ho, né l'auricolare né viva voce. Né l'auricolare né viva voce. Vabbè, c'ha l'eco, che c'ha questo qua? Richiamatelo un attimo, ride, mi raccomando. E ride, vabbè. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo. Insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi. Dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi invece per la tecnologia e la connettività. Io la scelgo per avere tutto, senza compromessi. A gennaio scegli Alfa Romeo Giulietta Sportech, con cerchi in lega da 17, vetri posteriori oscurati, schermo touch da 7 pollici con smartphone integration e retrocamera posteriore. Tua da 17.500 euro, oltre oneri finanziari. Con anticipo zero. Finanziamento soggetto ad approvazione FCA Bank, TAN 645 TAI GOT 41. Info su alfaromeo.it. Anno nuovo, Colombo. Tempo di buoni propositi, eh? Sì, buttar giù la pancia, per esempio. Ma se riuscissi a trovare una soluzione gestionale innovativa per digitalizzare il mio business... Provi Fluentis ERP. È gratis per 30 giorni. E se scegli un'installazione in cloud, i primi 12 mesi sono scontati del 50%. Ah, però, interessante, Ghirardi. Vada su fluentis.com, scarichi l'app e potrai iniziare da subito la sua Fluentis Experience. Fluentis. La F che funziona. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. La Zanzara. Eccomi ragazzi, questo video lo devo fare per forza perché non posso non farlo. Dedicato a due testicoli. Questo si chiama Longoni. Questo si chiama Longoni. E si chiama gioia ma beve poi ingoia, balla mezza nuda dopo te la dà. Si chiama gioia perché fa la troia, si per la gioia di mamma e papà. Questa frate non sa cosa dice, porca troia quanto cazzo chiacchiera. L'ho ammazzata, gli ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera. vieni a vedere che bella la luna da sopra i palazzi. Siamo la voce della libertà per questi ragazzi. Sono la strega che fa, sono la strega che fa, sono la strega che fa, shu shu la la. Siamo le streghe libere, libere per tutta la noce. Vediamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce. Ci bruciano in piazza ma tanto lo sai che resuscitiamo. Che resuscitiamo. Che resuscitiamo. Hai sentito l'ultima? Jihadismo è colpo dei immigrati musulmani, ma è una roba incredibile. Ma io sono un musulmano praticante. A Natale le mie figlie sono andate a fare lo spettacolo teatro in chiesa, dentro la chiesa. Ma cosa c'entra? E tu le difendi? Difendi ancora, magari dice che ha ragione, sì sì ha ragione. Pezzo di merda. Solo pezzo di merda come te potete votare la Lega. Solo pezzo di merda come te votate la Lega. E tu ti permetti, Cruciani, di dire che quelli del PD sono degli imbecilli. Imbecille siete voi. Voi che votate la Lega. Voi che votate questo imbecille. Voi che le votate. Questo qua è un psicopatico, cazzo. Aspetta prossime elezioni che prenderà il 99% e vedrete come finirà l'Italia. Vedrete. Abbia pazienza, fra poco andrà al governo e vedremo come finirà l'Italia. Vedremo, vedremo, vedremo. Oh. Allora, caro Paco, Salvini si riferiva, poi naturalmente non può essere discussa la tesi, che l'antisemitismo è frutto, secondo lui, dell'immigrazione musulmana in Europa, in Italia, eccetera, eccetera. Non so se è vero o non è vero, si può discutere. Non è che ha detto che il jihadismo, l'antisemitismo... C'è anche quello, ma non c'entra niente. Chi se ne frega. Francesco dalla provincia di Bologna, vai, avanti tutta. No, prima c'era ancora cosa. Aspetta, chi fa le cene della marcia su Roma, tutta quella roba. Chi c'era? Nicolò da Bari, Nicolò da Bari. C'entra niente gli musulmani. Nicolò da Bari, vai. Sì, Cruciani, dimmi. Dimmi. No, ma stavi dicendo tu del pissing, no? Che stavi dicendo? Non so dove eravamo rimasti. Stavo dicendo che a me piace l'urina. Ma come fai? L'urina. Ma che vuol dire ti piace l'urina come frase? Ti piace l'urina? È legittimo, per carità. Che vuol dire? Infatti telefona qui. È tutto legittimo, tutto torna. Non c'è tutto una cosa collegato. Voglio sentirmi sottomesso perché non faccio altre pratiche di sottomissione. Però ti piace l'urina? Ti piace l'urina? Sei esattamente. Cioè nel sesso ti piace utilizzare questo strumento, diciamo. Bravissimo, bravissimo. Sì, cioè, bravissimo. Secondo me lo rende più interessante. Più, cioè, ma lei culturalmente in che ambiente è cresciuto? No, interessante questo quadro. Culturalmente lei in che ambiente è cresciuto? Cioè la sua famiglia ha tradizioni vicine alla destra, no? Ma che perché? Tradizioni ha? No, chiedo, no, no, chiedo, vicino chiedo. Alla sinistra, vicino alla sinistra. Ma perché devi attribuire queste cose per forza alla destra? Ride. No, scusami, chiedo, Nicola, chiedo, io voglio capire una cosa, scusa. Cioè tu preferisci addirittura questo alla, come dire, all'amplesso vero e proprio o no? Sì. No, no, no, no, allora, no. Specifichiamo, io che è interessante. La pratico... a fine rapporto sessuale. Ah, a fine, sì, sì. Quindi come per concludere sulla torta. Sì. Come quelli che bevono il sambuca alla fine, insomma, sì, d'accordo. Come dessert, esatto, come bravo dessert. Pare. D'accordo. Come dessert, no, bravo un corno, bravo proprio niente, mi spiace per no, lei. No, bravo nella spiegazione. Ah, nella spiegazione, ho capito. Scusami, capito. Cioè alla fine del rapporto tu pratichi sia da passivo che da attivo il pissing, se non ho capito male, giusto? Giusto, giusto. E alle ultime elezioni le ha votato Lega, ha detto prima. No, ah, 5 stelle, scusa, 5 stelle, 5 stelle. D'accordo. Beh, ma insomma, quadro. D'accordo. Ma d'accordo. Cosa c'entra? E oggi che cosa voterebbe lei, ad esempio? Oggi? Ah, non lo so, sono incerto, Certo, tra chi però? Tra chi? Lo capirai, lo capirai in una prossima seduta di pissing. Più Europa probabilmente. Più pissing per tutti. Figurati. E ride. Francesco dalla provincia di Bologna, dai. Io volevo intervenire in relazione alla forma di arte, di artismo di quel rapper romano, ricordando, penso che sia tu che Parenzo, sappiate che De André, il famoso Fabrizio De André, al quale fu con... Non sento poco però, Francesco. De André, no, sente benissimo. De André, come io non paragonerei De André a questo cantante, però... No, non sto paragonando De André con il rapper romano, sto paragonando il fatto che comunque una forma di arte deve essere in qualche modo sempre tutelata. Se voi vi ricordate... Sempre? sempre tutelata. De Andrè, sì, ma chi è? Che nessuno qui parla di tutela. Qualcuno si sta interrogando sull'opportunità che un signore che nel passato ha scritto delle canzoni che nessuno vuole cancellare, sono visibili ovunque, né sono istigazione alla violenza, altrimenti fossero istigazione alla violenza sarebbe intervenuto un giudice, Allora, sta discutendo dell'opportunità che salga sul pacco di Sanremo. Per me è follia, perché questi qua... Non è perché io questo qua non lo considero un istigatore alla violenza, lo considero un signore che ha scritto certi testi per guadagnare dei quattrini. I signori di Sanremo, che organizzano Sanremo, che è un grande baraccone dove la gente viene pagata anche un sacco di soldi, se non volevano casini non avrebbero dovuto invitarli. Chiaro. Hanno la possibilità di andare a consultare sull'internet i testi di questa persona e dire: beh, questa persona forse non può andare per noi, punto e basta. Una volta che l'hanno invitato, non è che dopo ci possono ripensare. Direi che però è diverso dal caso di Mahmood, ad esempio, o altre canzoni. Ma non ha scritto nessuna canzone del genere. Anche l'anno scorso ci furono delle polemiche sul Mahmood testo. Non c'entra niente. Achille Lauro, che faceva l'incitamento all'uso della droga. Sì. Allora, sono due robe completamente diverse, però. O meno è la stessa cosa, potrebbe essere interpretato. Potrebbe essere la stessa cosa. Dopodiché, è ovvio che adesso non è che lo puoi eliminare adesso. Cioè, questa sarebbe veramente una follia. Chiaro. Però io quando sento, non so, Salvini che parla, questa persona dovrebbe essere eliminata perché... non l'ha detto, ha detto la cantasse a casa sua, queste cose non sul palco di Sanremo. Come se a casa sua, invece. E ha detto che i dirigenti RAI dovrebbero intervenire. Io vi ricordo, se voi penso che siate al corrente, che Fabrizio De André scrisse una canzone, è una storia sbagliata. Salvini si facesse i cazzi suoi, cioè la RAI perché la politica deve rompere i coglioni su queste cose? Il servizio pubblico alle volte uno interviene per cercare di capire se l'obiettivo del servizio Marco pubblico provincia è anche quello, di Treviso, tutto qua. Marco provincia di Treviso. È una cosa. Giuseppe, eccoci qua. Se ne frega di De André. Io vorrei tanto fare pissing con mia moglie, ma lei non vuole saperne. Questo è un problema, sì, questo è un problema. Quando le due volontà non si incontrano, quelle tra marito e moglie, tra compagno e compagna, insomma, fidanzati, eccetera, questo è un problema. Tu stai dicendo che c'è un problema concreto, serio, che noi potremmo aiutare, tra l'altro, a risolverlo, cioè Parenzo, potremmo aiutare questo signore a risolvere questo problema. Ma anche magari. Vada da uno psichiatra, da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, da una sessuologa. Ma la cosa strana è che all'inizio lo faceva, forse perché voleva conquistarmi, non lo so. Cioè lo faceva che cosa, il pissing? Sì, certo. Cioè passivo o attivo? Io ero passivo, io lo ricevevo. Tu lo ricevevi, poi invece ha smesso questa pratica, diciamo. Poi ha smesso, sai, figli, cose del genere. Forse quando ti hanno conquistato poi mettono da parte, no? Tutto quello che è. Lei mi diceva che da giovane è stato un militante di AN. No, cosa diceva prima? Non ho sentito. Da ragazzo era un militante della Lega? Assolutamente. Certo, ovviamente. Della Lega. Però scusami, Marco, secondo me è una pratica sessuale che tra chi vota Lega è più apprezzata. Sì, adesso non scherziamo su queste cose qua. Scusami, Marco, però la realtà, la cosa vera che tu hai raccontato è questa: che tua moglie ormai si rifiuta di fare questa cosa. Cosa possiamo fare noi? Bisogna, secondo me, sensibilizzare le persone su questa pratica. No, ma ognuno lo fa se lo vuole farlo. Non è che uno deve essere obbligato a farlo. Vedetevela voi con i vostri consulenti, con i vostri avvocati, tra di voi. Ma non servono i consulenti, Giuseppe. Ma non lo so, ma cerca di convincerla. Vada in terapia di coppia. Giustamente, dice Parenzo, affronti un percorso. Con una terapista e spieghi alla terapista che lei vuole fare questa pratica qui. Pissing, anzi, che è detta pissing. Che voi siete, che voi siete pioggia dorata, che voi siete degli elettori comunque della Lega e volete respingere gli immigrati. Faccia questo quadro completo alla sua psicanalista, psicoterapeuta, e le consiglierà. Cioè, per te c'è un legame tra gente che vuole fare pissing e il fatto di voler respingere gli immigrati? Adesso non lo so, non sono del settore del pissing, non mi intendo, ma credo che ci sia una forte relazione tra questi tre elementi. Non credo. Assolutamente no, però è una pratica che andrebbe rivalutata assolutamente. Se la rivaluti a casa sua, come direbbe Salvini. Salvini direbbe a casa sua. La faccia, ma a casa sua. Come dice Filippo Salvini? Da Napoli, vai Filippo. A casa sua. Filippo. Dimmi Filippo, dimmi. Innanzitutto, buonasera a tutti, in particolar modo al grande Parenzo. No, non ci interessano i un grande cugino dirigente aziendale. Ho spento venerdì che si parlava di pissing, riaccendo ora e si parla di pissing. Un ascoltatore intervenuto. Come sai, ci sono dei filoni che si percorrono. Gabriele, chiamiamolo così. Ma chi se ne frega di quello che dice Gabriele? Se non gli va di sentire questa roba qua, chiude e grande dirigente balle di un'importante azienda. Bene, dimmi, caro. Allora, io voglio cambiare totalmente argomento. Voglio parlare dei trans. Perché comunque è un argomento nelle ultime due. Io ti dico la verità, mi sono capitato un paio di cose in questa settimana. Io la pensavo. Però Filippo, però scusami, capisco che a Napoli c'è un problema di baby gang che assaltano i poliziotti, che sono costretti, come dire, a rintuzzare. Capisco che c'è un problema negli ospedali, capisco che ci sono tanti problemi, cose che accadono solamente a Napoli, però ti devi collegare meglio, caro amico mio. Ti devi collegare meglio. Ti devi collegare meglio. Ciao. La Zanzara. Allora, caro Davide, grande ritorno alla Zanzara dopo un sacco di tempo, non mi ricordo quanto nemmeno. Sei tu che non la volevi qui in questa trasmissione, lo possiamo dire apertamente. Tu non la volevi ospite, ma figuriamoci. Tu non, ti sei rifiutato intanto perché chiamiamo e tu dicevi no, non la voglio. Quello, è legata ai fascisti, ma guarda che poi ci crede, non ho mai detto nulla del genere. Daniela Santanchè è con noi, buonasera. Buonasera, ma come, Davide, non mi volevi, ma non ti posso credere. Ma infatti non è così, Danielina. Ma come non no? Così. Perché tu così. Mi vuoi tanto bene. No, vero? Ma guarda, sì, ti dico quello assolutamente. Ogni volta che io dicevo, molto. Ma no, ma è troppo legata la Meloni, fascisti, partito neofascista, ma cioè, cosa tutto si può dire. Tranne fascista non lo è mai, assolutamente, anche per storia non l'è mai stata. Questa nessuno può accusarla. Ma tu mi devi volere bene perché lo sai quanto io difendo lo Stato di Israele, tutta la questione. Potresti anche dire il fascismo mi fa schifo. Lo potresti dire assolutamente, cara Daniela. Ma io il fascismo non lo giudico perché non c'ero, lo consegno agli storici. Ma io neanche, ma però il medioevo neanche io lo giudico. Ma la ghigliottina anch'io la giudico. Io no, la giudico anche se non c'ero, però scusa. Io ti dico sì, le leggi razziali il fascismo, sono tanto anche il regime, cosa tremenda, anche. Il regime, ma io non faccio lo storico, io faccio il politico. No, ho capito, però uno può dire il fascismo è stato un periodo scuro, uno schifo, una dittatura, lo può dire. Sì. Mussolini. Ma io lo lascio agli storici. Cioè tu non dici no, delle no. Cioè, e su quello andiamo e su quello. No, però vedi Parenzo, ogni volta mi dice sono sicuro che la Santanchè considera Mussolini un criminale e lo potresti dire che è stato un criminale. Ma quello è la cosa di Parenzo. Io non dico questo, non faccio lo storico, scusi. Io faccio il politico. Posso dire che questo governo che c'è fa schifo, posso dire che tutte le tasse che si stanno questo mettendo è legittimo. Fa schifo, ma dire che Mussolini era un criminale mi pare un dato storico altrettanto acclarato. Ma lo saranno, lo hanno già detto, lo hanno già detto Cruciani, non te lo ricorda, ma lo hanno già detto gli storici. No, d'accordo, però ecco, 2020 ci riporta agli anni 20. Però uno potrebbe dire, che agli anni 20, Parenzo, ci tocca i 100 anni di Novella 2000, perché Novella 2000 1920. Però scusami Daniela, uno potrebbe anche dire che ne so, Mussolini ha fatto cose buone, al contrario, allora ha fatto delle cose positive per l'Italia, questo si può dire, allora se non... certo, voglio dire, Mussolini è innegabile, lo leggiamo sui libri di storia che ha fatto delle cose che sono state giuste e ha fatto delle cose che sono state sbagliate. Ha fatto cose le giuste. Leggi razziali sono state e una le cose roba giuste che quali infanga. Sono le cose giuste quali sono, per esempio? Penso, voglio dire, se I pensiamo treni, a tutti alle rotte ferroviaria e se pensiamo alle opere architettoniche, se pensiamo Latina. All'Ips, se pensiamo alle bonifiche, cioè ci sono tante cose che sono cioè c'è stato fatte. Un Mussolini buono, ma diciamo. Avete chiamato per parlare quello di morto, Mussolini? No, di Mussolini no. Per altro. No, assolutamente, ti ho chiamato per parlare di un'altra cosa, anche se tu, vuol dire, è legittimo pensare, tu lo pensi che Mussolini sia stato anche un grande statista, magari, no? Uno statista eccelso. Io ho detto che Mussolini è consegnato alla storia e agli storici e che quindi io non ho vissuto quel periodo, posso dire che è stato sicuramente un periodo di luci di ombre, molte luci, molte ombre. Giudizio sulle leggi razziali, io ti dico che è una cosa che è un'infamia. Poi ci sono delle cose che vorrei molte dire, luci, molte, molte luci, molte però luci. Non è che possiamo star qua no, adesso però, con tutto rispetto però, assolutamente, uno però può dire la può Santa dire, che è col Fez può, ma non è col Fez, che c'entra il Fez può avanti. Dire è stato un grande statista è stato un la grande Santa anche, che peraltro il Fez non ti dona neanche cioè la donna è elegante, perché devi metterti il Fez? Io ho messo il Borsalino, il Fez, ecco appunto, metto esatto. Texano, non appunto. Però scusami, allora io voglio andare all'attualità, tu sei molto incazzata per questa cosa di Amadeus, immagino anche con questi rapper, ti segnalo una cosa, ti segnalo una cosa, cara Daniela. Uno se la prende con questo Junior Kelly, però c'è un altro, anzi altri, i pinguini tattici nucleari, io veramente non so chi cazzo sono, sarà una mia ignoranza, altri partecipanti al festival, che hanno scritto, non la canzone del festival, ma un'altra canzone, le seguenti frasi. Irene, questa sera la faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani, brigate rosse, accarezzano te che sei Aldo Moro. Peraltro con un riferimento alle Brigate Rosse. Questa sera la faccia te la strapperei via. Questi tizi che sono i pinguini tattici nucleari, se non sbaglio, se non mi dicono male. Allora voglio dire, non è che è l'unico che ha scritto nel passato testi controversi, il signor Junior Kelly. Sono testi che appartengono al mondo del rap. Non capisco perché te la prendi tanto. Va cacciato a pedate nel culo questo qua. Ma scusami, noi facciamo di tutto e di più per combattere la violenza di genere. Facciamo di tutto e di più anche una commissione contro il femminicidio. C'ha ragione, certo. Io devo al Festival di Sanremo, non una cosa altra, la kermesse della musica, della canzone, che la guardano milioni di famiglie, perché voi sapete che le cose non si combattono soltanto attraverso le leggi, ma anche attraverso un'opera di non è che cantano quelle robe lì. Non cantano quelle robe lì, ci mancherebbe altro. Come mi piace capire e studiare, sono andata anche a leggermi altre canzoni che aveva scritto questo sconosciuto. C'era scritto che solamente lui canta: vaffanculo l'Italia, fanculo l'Italia, fanculo lo Stato, fanculo la polizia. Allora io ti dico, ho nella libertà di ciascheduno di noi, ma la libertà non deve violare gli altri, i valori, i principi. Siccome se tu mi dici un concerto, uno al concerto paga un biglietto, però, scusami. Ma il Festival di Sanremo che lo guardano i scusami Daniela, però non canta quelle robe lì, i ragazzini ci vanno a sentire. Ma uno così non può andare al Festival di Sanremo, perché lo dico a te che sei un uomo evoluto, sul fatto che allora, questo festival è iniziato. Amedeo si dice che le donne devono stare un metro. Ma non ha detto, sta quella, un passo indietro. Ma che quella? Ma ha detto lei. Ma ho però capito. Su questo c'ha ragione la Santa Anchè. Ma ragazzi, tu vorresti cacciare Amedeo? Non voglio cacciare nessuno. Ma è non caccio nessuno. Ma hai detto che vorresti mettere Mara Veniera al posto di Amadeus? Hai detto? Certo, perché le donne che sul palco sono 10. Sì che stanno in passo un metro indietro rispetto ad Amadeus. Perché non deve essere una donna a condurre? Perché le donne ma quello andare che c'entra nel passato anche la Meloni, secondo me. Anche la Meloni che canta la canzone Sono una donna. Com'è quella canzone del rap? Cioè, secondo te è meglio la Meloni? Che volevano prenderla in giro, quella è diventata, voglio dire. No, insomma, io la metterei a ovunque. Cioè, meglio la Meloni sul palco di Sanremo che Amadeus, dici te, Daniela, non capito. No, fate sono due persone che fanno due cose diverse, quindi non si possono paragonare. Parezzo, tu metteresti la Meloni al posto del rap? Festival la inviterei. Sicuramente inviterei. No, la canzone, la politica sia fuori. Io non chiedo. Però scusa, tu da politica, da politica dici che un conduttore va sostituito, che quelli là vanno cacciati. Più intervento politico di questo, qual è allora l'intervento politico? Scusami. Cioè, tu da politica dici. Tu da politica, da parlamentare, senatore, senatrice, parlamentare, quello che sei, deputato, stai dicendo i rapper che cantano queste canzoni e nemmeno le cantano a Sanremo vanno cacciati, mentre un conduttore va sostituito perché ha fatto un piccolo scivolone, che secondo me non è uno scivolone, perché ha descritto quello che è il rapporto magari che le ha raccontato la fidanzata di Valentino Rossi. Ma di che stiamo parlando? È un intervento della politica sul Festival di Sanremo. Io devo dirti che mi stupisco molto di Giuseppe, una persona come te che fai tante battaglie. In questo caso si devo dire che Parenzo è meglio, perché se tu non riesci a capire che noi in Italia abbiamo il tema un problema il di un tema sicuramente intimo, c'è. Il abbiamo c'è. Un problema di violenza di genere, ma abbiamo un problema di far capire il rispetto per le donne, perché non lo dico io, ma tu anche sai questo che è il grado vero. Di civiltà di una nazione. Ma ho capito, ma non è una canzone di un rapper, una canzone la canzone la di un rapper di che nemmeno la ma che nemmeno la canta a Sanremo. Con tutti i cantanti bravi che abbiamo, dobbiamo far venire un coglione che cantava a fanculo lo Stato, l'ho stuprata, l'ho e anche su questo c'ha ragione. L'ho fatto la maschera. Ma di che stai parlando? No, ma ha ragione. In più parliamo del servizio. La cosa in più è che parliamo del servizio pubblico. Mia figlia, le ho chiesto. Forse il privato, chi se ne frega? Il privato l'ha invitata, chi se ne frega? Il pubblico ha un'etica in più, dovrebbe avere. Ma non siamo impazziti. Queste robe qui sono presenti su internet. Ma che volevano, ma internet è un non paghi il canone. Quello è il servizio pubblico. Ma non le canta sul palco di Sanremo. Non le canta, canta un'altra roba. Ma è una figura che sicuramente... E allora accusatelo, accusatelo, denunciatelo per istigazione alla violenza. Ma io non denuncio nessuno. Ma tu sei andato a vederti il passato di questo Jerry Callis, sì. Junior Callis, ma, come ma sì, ma lo conosco benissimo Junior Callis, allora, certo. E com'è? Uno che sei contento che si fidanza con tua figlia? Ma non lo so se sono contento, ha avuto dei precedenti, è stato condannato, non mi ricordo perché, per rissa. Perché è stato condannato? Ma, non ma scusa, lo so. Pure condannato al Festival di Sanremo. Se pure condannato mi sembra la follia, questo io non lo sapevo. Pure condannato. Ha avuto un patteggiato, non so che cosa. Non so, un conto è condannato, un conto andate è se... a vedere. Ma sì, ha patteggiato delle una pena, non mi ricordo per che cosa, ma non mi ricordo, ma allora ragazzi, ma ragazzi, ma il problema non è quello. Ma i cantanti stiamo parlando. Ma cosa me ne frega a me? Ma voglio dire, ce ne saranno anche altri dentro. Una condanna per furto, alcol, risse, una condanna per furto. Ho capito, sì, però che caspita. Ma no, ma io non dico, ma scusami però Daniele, il punto non è quello, chi può andare. Allora decidiamo che uno condannato ma è una figura di cui non si sentiva il bisogno. Con tutti i cantanti che ci sono, viva Dio, non c'era bisogno. E prendiamo Junior Callis. Ma nessuno la scelta non era tra quello e quell'altro. Ma di che state parlando? Uno si informerà, ma il direttore artistico andrà a vedere. E allora cacciate il direttore artistico, prendete a pedate nel culo il direttore artistico allora. Ma il direttore artistico fino adesso ha dimostrato che insomma voglio poi vedere come andrà questo pezzo. Dunque fosse per te lo prenderesti a pedate nel culo, lo cacceresti per me non lo farei salire sul palco dell'Ariston perché è la kermesse televisiva più vista dalle famiglie italiane, dai ragazzini, dai meno giovani. E comunque trovo che siccome abbiamo un problema di violenza di genere che non possiamo solo combattere attraverso le leggi ma anche educando va bene, mi hai convinto, va bene uno che non sta cantando questo a Sanremo. Daniele, non canta questo, non ti interessa. Allora tu non ti scandalizzi, non ti scandalizzi per una scena fascista per il 28 ottobre, direbbe Parenzo, e ti scandalizzi per uno che canta. Questo è anche vero. Ma io ho sempre detto che i cretini ci sono. Se parte che ho spiegato che non era una scena fascista, era una cosa del giorno dopo. Ma comunque a me chi fa delle cose che non vanno bene, non ho nessuno. C'è uno che espone una bandiera di Salò, non te ne frega niente, invece ti frega di uno che due anni fa cantava del coso. Ma non mettiamo le stesse, cioè non mettiamo insieme le cose. A me non mi scandalizza né l'uno né l'altro, devo dirti. Per fare confusione, a me mi scandalizza perché io pago il canone da italiana alla RAI, tutti gli italiani pagano il canone. Uno poteva pretendere qualcosa di diverso. Positivi. Ma che questa cosa degli esempi positivi a Sanremo? Ma chi te l'ha detto? Certo, c'è stato di tutto a Sanremo. Eminem è stato a Sanremo. Bella cazzata. Io spero che le 10 donne che sono state scritturate per salire sul palco, se ci va uno così, non salgano. Dovrebbero perché non salire sul palco. Certo, non dovrebbero salire sul palco. Perché quello ha detto una frase, perché ha descritto le donne come belle ragazze. Ma tu non hai letto, vedo che tu non hai letto quello che lui ha scritto, non una canzone. No, Amadeus stavo dicendo. Amadeus, quella frase lì che ha detto. Io ti ho detto che le donne, a parte che mi dispiace che appunto le donne se non facciamo squadra, perché noi se non facciamo squadra... Meno male, non è che sono tutte uguali, non è che la pensano tutte allo stesso modo le donne. Questa cosa è ridicola, che le donne devono stare tutte insieme. È ridicolo. Che sul palco quando Junior Callis, come cavolo Kelly, si chiama? Kelly. Aspetta un attimo che torno, aspetta un secondo. La Zanzara. Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Normale. Dalla serie Nuove Parafilie ho conosciuto una tizia che si eccita con le piante. Con le piante. Allora, avete sentito all'inizio un pezzo, un pezzo di ragazzone di Vasco Rossi che, in cui si usa un linguaggio esplicito. Moltissimi cantanti che poi sono stati a Sanremo hanno usato in altre canzoni, magari non a Sanremo, ma è successo anche a Sanremo sul palco, un linguaggio esplicito. Ora io non capisco questa fissazione, se non una fissazione politica contro per casini politici della RAI, di cui non ci frega nulla, cara Santanchè, contro Amadeus o contro dei rapper che devono salire sul palco. Dei casini politici della RAI ne parlo in Vigilanza RAI. Sul Festival di Sanremo ne parlo da politico, da cittadino e da madre. Se poi, se lei facesse, se tu facessi un bel sondaggio tra chi ascolta la vostra trasmissione, vedrai che la maggioranza dà ragione a me, perché parliamo della prima azienda culturale della nostra nazione, parliamo di un'azienda che prende i soldi dai cittadini. Ma non sta promuovendo la violenza contro le donne? Non sta promuovendo la violenza? Sta promuovendo, dà un messaggio sbagliato e ci sputa in faccia tutte le donne che in questi anni si sono impegnati per portare avanti delle battaglie, delle leggi. C'è la coppia Amadeus, Junior Kelly o altri vanno cacciati perché sono contro le donne. Io ho detto una cosa diversa. Io ho detto, hai detto che Amadeus va sostituito. Questo Amadeus sarebbe stato molto bene forse ci fosse stato qualcun altro. C'è Amadeus, bene Amadeus, prendiamoci Amadeus. Hai detto che c'è Maravedier, dovrebbe essere. Sì, io avrei preferito. Vabbè, è poi la mia opinione, io avrei preferito. Vabbè, poi che ha cominciato proprio col piede sbagliato, invita la Rula, il professor Breal a parlare della violenza delle donne. Sì, certo, come invitare Saviano e poi dire che è una persona che non è schierata. Se per voi è uguale, per me no. No, io ho detto, giusto di lotta alla mafia, ma ha una ideologia diversa. Perché sappiamo, ci venga a parlare delle donne musulmane sottomesse al clan maschile della famiglia, ci venga a magari parlare della condizione della che ne sappiamo, non l'abbiamo ancora visto, no, però. Ma io l'ho incontrata tante volte in televisione, so quello che pensa, ed è schierata ideologicamente. Allora non è che ci devono prendere tutti per il naso, sappiamo benissimo che tipo di impostazione ha. Sì, ma adesso non è questo Junior di cui Kelly stiamo che parlando se si fidanzasse, è schierato. Junior Kelly, se si fidanzasse, tu avessi una figlia, lo prenderei a calci nel sedere, forse no. A calci nel sedere. Se avessi una figlia perché... e uscisse con Junior Kelly saresti preoccupata, non ho capito. Sì, molto preoccupata, perché il problema è che lui non solo canta quelle cose, ma molto probabilmente le pensa. Visto che ha avuto pure una condanna, scusa, anch'io sarei preoccupato. Appunto, da questo punto di vista, sicuro. Ma adesso domani sera chiama tua figlia e te la porta fuori. Poi sicuramente anch'io un po' preoccupato. Mia figlia, io ho chiesto. Ma ne parliamo di te, quando poi tua figlia ti chiama e ti dice sono nel letto con Giulia. Adesso Kelly. Io non pretendo che mia figlia esca con il notaio. Cioè, se tua figlia uscisse con Junior Kelly saresti preoccupato tu. Ma certo, ma chiunque. Ma siete di un bigottismo, siete di un bigottismo spaventoso. Ma io sicuro non pretendo che mia figlia esca col notaio di Siena, col figlio del notaio di Siena, però. Anche no, scusa, dai, Davide, siccome tu, Giuseppe, è una figlia femmina. Sì, ma anche per anch'io, la mia grande, io ho tre figli, la mia grande è una femmina. Ecco, allora, noi auguriamo, Davide, che la figlia di Cruciani lo chiami, dica papà, sono qua, che mi faccio nella cameretta. Nella cameretta con Junior Kelly. Esatto. Alzerai le mani, io direi se ti piace così, ti piace così, che ti devo fare? Bravo. Tanto non glielo potrei impedire, diciamo la verità. Non potrei. Vabbè, ma che fai? Contento e forse non dire ma... che te lo sei cercato, visto che tu sei così libertino. Ma certo che lo sono in queste cose, ma magari hai insegnato qualcosa a tua ragazza, no? Me lo ricorderò. Ma ricordatelo sicuramente, volete? Poi vediamo. Se sei già lì, che sei già terrorizzato, se tua figlia parla con un maschio, figurati se sta con Giuliano. Ma figuriamoci se sono terrorizzato che parla con privato. Ma assolutamente, ma quando mai? Assolutamente no. Vabbè. Ma se la guardi a vista e ti occupi ogni 30 secondi. Ma che c'entra? La chiamo? Non è che la guardo a vista, assolutamente. Non vergognarti di questo, ma è normale. Basta che non dici il contrario alla radio. È giusto, è bello. Non ho capito. Scusate un attimo, se mi occupo. Anch'io verifico con chi esce mia figlia, ma a 12 anni è normale. Ma a 16 anni, se vorrà uscire con qualcuno, a 15, ma verificherai 16. Chi è? Ma chi se sei Giulio Kelly, le piacerà che giù. Esca col figlio del notaio di Siena, mamma per carità. Mia, che siete una ma figuriamoci. Siete veramente. Voglio verificare chi sono siete gli amici di mia figlia. Vabbè, Giuseppe è l'unico padre d'Italia che è felice e plaude se la figlia ha esatto. Ma non sono l'unico evviva, padre. Evviva, infatti, c'ha ragione, su questo ragione. Ma non ho detto questo, ho detto se dovesse succedere che uno come Junior Kelly esce con mia figlia, alzerò le mani e dirò: se ti piace, stai bene, sei tranquilla, sì, sei innamorata, ma alzo le mani. Ma se hai sbagliato qualcosa, ma dai, no, certo, assolutamente no. Ma che cazzo, ma lo state dipingendo come un criminale? Ma no, quale qualcosa? Criminale? Figuriamoci. Però. Io non ho capito, per esempio, non lo so, a te non c'è gente che ti chiede, che ne so. Io lo inviterei a cena e direi: scusi, vabbè, caro Kelly, se lei deve prendere una cosa, la si compra, non la si ruba. Ad esempio, ma quella ha avuto una se non le vanno bene le idee, non fai una rissa, caro Kelly. Io lo inviterei a colazione e gli direi: amico caro, ti piace mia figlia? E questo mi amareggia moltissimo. Hai visto per cosa è stato condannato questo Kelly? No, adesso quello non ho visto per cosa è stato condannato. Condannato per furto, va benissimo. Io furto, non ho detto quindi uno che a rubare è abituato. Ma io non ti sto dicendo che è un coso. A un certo caro punto amico, inizia anche a rubare. Quando senti l'urgenza di aver successo e sai che non potrai riuscire in quello che vuoi fare, magari perché non hai le stesse possibilità di uno che ha i soldi ce li ha, allora devi cercare di farli questi soldi. No. Come non ha importanza, questo ha detto. Cioè, ha avuto una condanna. Ma chi esce con tua figlia? Ma non sto viva, viva, viva, va benissimo. Ciao, Daniele, tu sei lavori per il recupero di quelli che vengono condannati, quindi tua figlia va bene anche se frequenta persone così. Vabbè. Tu dirai che bel padre che sono stato, eccellente, ho dato un ottimo esempio e viva e via, che figata. Non ho detto io invece questo. Dico che non è una figata e che il festival di Sanremo è per le famiglie, questo Kelly va a cantare altrove. E forse per me. Ciao, tutto. Ciao, Daniele, ciao. Ciao, bacio, ciao, ciao. No, è normale. Francesco da Vicenza, vai, Francesco da Vicenza. Eccomi qua, eccomi qua. Ciao Parenzo, ciao Curciani. Dimmi. Due riflessioni. Uno, tirar fuori le puttanate delle ferrovie, delle bonifiche, delle paludi, veramente non l'ho tirata io fuori la puttanata. No, l'onorevole. No, ho sentito l'onorevole. E dopo volevo dire che il Festival di Sanremo, tirar fuori questi artisti per accalappiare un po' di share tra i giovani, è un goffo tentativo di quel baraccone che ormai non si fila più praticamente nessuno, sicuramente non tra i giovani, che si prova così a fare questo, a trovare il personaggio che ha magari anche un passato per fare un po' di. Ma non di lo so scandalo. Se tu stai dicendo che è tutto costruito per far parlare del festival. Non credo. Non per parlare del festival, almeno per provare a prendere quella fetta di gioventù che non se li infila il festival neanche per sbaglio. Non credo proprio. Mauro da Messina, vai Mauro, dimmi. Allora, le solite veste di cazzo comunisti hanno sbagliato a portare al processo Salvini, se ne sono accorte che portando al processo Salvini guadagnava 5 punti, ma siccome con quelle gran teste di cazzo si accorgono sempre in ritardo, ora cercano di ritornare indietro rischiandolo dopo le elezioni in Emilia Romagna. A proposito, ai signori di Repubblica dico, forse vi siete scordati, c'è un arresto in queste ore in Emilia Romagna, forse perché gli ha mangiato con i migranti. C'è qualcuno che gli hanno trovato soldi in casa che faceva venire i migranti qua. E un'altra cosa al signor sindaco di Messina, invece di mettersi di traverso e fare venire di nuovo tutti questi cazzi di clandestini qua, lui si è messo a chiudere chiude i bordelli. Sì, ora questo si è vero, si è nella fissato. Specialità che si è messo a chiudere i bordelli, invece di chiudere i bordelli il signor sindaco di Messina dovrebbe mettere in sicurezza gli alberi che cadono quando c'è un sacco di vento e chiudere i porti. Perché qua li fanno venire tutti. Vabbè, non è che l'alternativa adesso non è che è questa. Ora si è specializzato nel chiudere i bordelli. Si va in giro a fare la lotta contro la prostituzione, contro i clienti. Sì, bello, il lunedì abbiamo le fotografie dei preservativi sul tavolo, altro blitz in una casa d'appuntamento, poi arriva il vento e cadono gli alberi. Ma dico, dove cazzo vive? Vabbè, adesso cadono gli alberi, non credo che cadano gli alberi. Cadono adesso. Gli alberi di Cruciani, non è che sto a Milano, sto a Messina io. Il famoso Mauro da Messina. Il famoso Mauro da Messina. Una Messina. Senti, che ne pensi del signor Parenzo, per esempio, tu, caro Mauro? Il signor Parenzo, se fosse nel cast della famiglia Adams, il truccatore lo dovrebbe fare più bello. No, però semmai quello della famiglia Adams, che mi assomiglia di più, ma a parte la grassezza, è... Come si chiama? Parenzo, tu sei sbagliato. Lo zio Fester. Che senso è sbagliato? Spiegami, non ho capito. Parenzo, tu sei sbagliato. Sei nato sbagliato. Ma che bello. Sei nato sbagliato. Il solo fatto che sei comunista, la vice tutta. Ma che comunista? Il solo fatto ma quale comunista? Quale comunista? Tu sei comunista. Non sono mai stato comunista. Tu sei la 194. 194 sei tu. La 194 sei. Tu sei la 194 mancata. La 194 mancata. 194 mancata. Sei la 194 mancata. No, io dico solo la 194 sei. La 194 Rom. E voi amici Rom. Perché li sei messo di traverso quando Salvini li voleva schedare? Ma date io che ho fa? Ma io non mi sono messo di traverso a nessuno. Faccio il giornalista e tu fai il coglione. Differenza fondamentale. Io racconto le cose e poi ho le mie opinioni. Fatti opinioni. Dopo che ve ne siete andati a fanculo in Umbria, ve ne andate pure in Emilia Romagna. Chi è andato, Mauro da Messina? Ma chi è andato in Umbria? Tu te ne devi andare a fanculo invece. Quelli vanno in Umbria. Quelli vanno in Umbria e tu te ne devi andare a fare in culo invece. Mentre quelli vanno in Umbria. Mauro da Messina. Conosciuto a Messina come un cornuto, perché lo conoscono tutti come un cornuto, gira per Messina e tutti gli fanno il segno delle gonna, gli fanno la gonna, prendi il caffè e gli fanno il segno delle gonna col caffè, gli fanno dottore Mauro, quanti ce ne vuoi di caffè? Due, e gli fanno il segno delle gonna, non due, gli fanno due. Dottor Mauro da Messina, ce ne vuole due di gonna, due di caffè. Mamma mia. È vero, ma è vero sta cosa delle gonne, Mauro? Non ho capito. Sì, gli fanno così, due caffè e gli fanno le gonna. Chi è che si corica al letto con Parenzo? Gli fanno le gonna, gli fanno. Mauro da Messina, quanti caffè vuole? Due, gli fanno le gonna, gli fanno. Mamma mia, Mauro da Messina. Sei sposato? Ma no. Chi è sposato, poveretto? Ma la moglie se n'è andata. No. La moglie è scappata. Sì. Sei sposato. Sì. Allora torna a casa, va? Tua moglie che dice? 1,80, faccio culturismo. È meglio di quella specie di aborto di uomo. La c'è qua. Mauro la 194 lo chiamiamo. Mauro la 194. Tu lo sai che sei un cazzo pieno di Mauro la 194. Sei un cazzo pieno di Mauro la piacere Parenzo. Piacere Parenzo. Piacere, molto lieto. Molto lieto, piacere Parenzo. Molto lieto. Dire la faccia come la figa appena per la figa dopo che ha partorito e la faccia di Parenzo. Bella, ma che elegante questo signore. No, però è raffinato, non hai altri argomenti. Raffinato, è una persona raffinata. Perché ce l'hai con i comunisti? Con i comunisti perché uno ce l'ha, perché esistono. Ho capito, ma chi sarebbero questi comunisti oggi? Allora, i comunisti sono quelli che difendono i ladri, che entrano in casa. Oddio, adesso poi i comunisti non è che sono. Ascolta, ma dove l'ha visto lei questo? Dove l'ha studiato questo? Si oppongono alla schedatura dei Rom. Alla schedatura in generale, sì, certo. Schedatura certo, in generale, dei Rom. In generale, la schedatura. Allora, devi dire a quella testa di cazzo di se uno non ha commesso un reato, perché lo devi schedare? Se uno non commette reati, perché lo devi schedare? Che rompono i coglioni dalla mattina alla sera. Quando compri la macchina, siccome sei schedato. Ah, c'hai avuto l'accertamento fiscale, te? C'hai avuto l'accertamento. Non glielo chiede nessuno. Abbiamo capito. Mauro da Messina ha avuto l'accertamento fiscale. Abbiamo capito perché. E allora hai avuto l'accertamento fiscale, e poi critica i Rom. Sto cornuto. Mamma mia, abbiamo capito. No, ma finalmente. Complimenti per l'eloquio. Abbiamo finalmente. finalmente capito che questo elegantone ha avuto l'accertamento fiscale. Si sente, infatti. Sei nervoso per questo. Perché ha avuto l'accertamento fiscale. Sto cornuto. Ha avuto l'accertamento. E poi va a rompere le scatole ai rom. A te ti devono schedare che hai avuto l'accertamento fiscale. Ladro che non sei altro. A te! Fermi tu. La Zanzara. L'unico mio errore è che mi sono drogato. Per gioco. Sì, stavamo provò la prima volta per stavamo mangiando una pizza, che facciamo? Ci andiamo a drogare. Sdraiato a terra come dos. Guarda bene. Vestito bene Michael Kors. Che? Guardala bene. Tu la testa come Kevin. Ah, tutta te la fai. Che ti fai? Rolls Royce come Marilyn Monroe. Chitarra in perla Billy Joe. Sono per terra come Andri. Guardala bene. Che? Guardala bene. Per finire la regola. Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, voglio una fine così. Se la vivi. Rolls Royce, Rolls Royce, Rolls Royce. Voglio una vita così, sì, sì. Rolls Royce. Voi propagandate la droga. Siete due spacciatori, mascalzoni. Guardala bene. Che? Yeah. Guardala bene. Oh. Ah, tutta te la fai. Che ti fai? Dove sei, Veneti? Cruz, qui dalle sardine. Ciao Cruz. Io sono di destra e sono qua immischiato alle sardine solo perché Gottardo mi ha riferito che è pieno di figa. E infatti è così. Confermo, confermo. Qui tutte persone di tutta l'età, tutto pieno di figa, si procede. Meraviglioso, Cruz. Meraviglioso. Siamo al top. I'm doing you all night. Dammi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Tanti saluti dalla piazza 8 agosto di Bologna. Grande Cruciani, sardina number one. Viva Santori, Santuzzo, Santino, San Cazzo. Questi si pigliano per il culo da soli, capito? Cioè, si pigliano per il culo da soli. Scherzano, questo. Capisci? Chiamano qui, si pigliano per il culo da soli. È tutta una rimpatriata. Andiamo in piazza a divertirsi. Che c'è sta quello che canta, c'è sta Piff, c'è sta. Magari saranno neanche veri, ma. Oh, a proposito, anche... c'era Piff. Finalmente ha trovato un po' di compagnia il signor Piff. Non abbiamo qualche audio del signor Piff? Ma io delle cose interessanti invece. Mi dicono ha detto solo banalità. Effettivamente non c'è bisogno di tagliare quando uno dice solo banalità. Non c'è bisogno di proporre, anche se era utile, magari un passaggio appunto perché banale. Comunque c'era anche il signor Piff che ha trovato finalmente un po' di compagnia. Dice che si sentiva solo. Lo hanno aiutato a sentirsi meno solo il signor Piff. L'idea di scendere signor in piazza Piff. Contro i sovranisti. Ma io odio quelli che vanno in piazza, non li sopporto. Tutti. Te l'ho detto. Sì, tutto. È meglio il divano. Beh, diciamo tranne che invece casi in una democrazia scendere in piazza è una cosa meglio interessante. Meglio il divano tanto di casa. Tanto ci sono altri che si occupano di diritti, di cose. Ma che i diritti in piazza? Giuseppe, ma quali piazza? Che è successo? Hanno lanciato, la Lega ha lanciato il sito digiunopersalvini.it. Digiuno per Salvini. Digiuno per Salvini. Sì. Perché vogliono fare il digiuno? Matteo Salvini è processo, rischia la galera per aver difeso la patria. Io sto con lui e per un giorno digiuno per Salvini. C'è un digiuno. C'è gente che propone il digiuno. Aspetta, 734 hanno già sottoscritto. C'è il form online. Cioè, praticamente un giorno di digiuno contro l'ipotesi che Salvini vada in galera. Ipotesi impossibile perché Salvini. Ci sono tutti i nomi sotto, da Castelfranco. Fosse anche condannato, comunque non andrebbe in galera. Diciamo, fosse anche condannato in galera, non ci va. Anche se in teoria rischia fino a 15 anni. Quante firme hanno raggiunto questi simpatici signori? Ad adesso 734, ma è stato lanciato due ore fa e basta. Vabbè. La macchina di Morisi è già al lavoro. Antonio, provincia di Varese, vai. Ciao, diventeranno tutti musulmani adesso, faranno il Ramadan anche loro. Chi? Così? Chi? Quelli che faranno lo sciopero della fame, dovrebbero farlo per un mese, così almeno schiattano tutti quanti. No, non ho capito bene, scusami, perché dovrebbero fare lo sciopero della fame? Non ho capito. No, per Salvini, devono fare lo sciopero della fame. Sì, sentito. Qualcuno vorrebbe fare lo sciopero della fame, il digiuno. No, lo devono fare per un mese, tutti i giorni. Senza mangiare niente, bere. E perché dovrebbero farlo tutti i giorni? Così almeno si deperiscono, poi dopo ci lasciano le cuoia. Poi crepano, cioè, perché ovviamente. Tu vuoi che tutti i leghisti muoiano, mi sembra, no, di capire. No, quelli che scelgono di farlo possono emulare per il loro capitano, lo fanno. Sì, però ho capito, tu vorresti, dunque santi, ti auguri. Ci saranno, cioè, più santi. Cioè ti fanno schifo, la realtà è che ti fanno schifo, a te fanno schifo. No, non mi fanno schifo tutti. Tanti ti fanno schifo. Ma chi ha chiamato prima è proprio schifo. Ma chi? Persona. Chi? Ma la Ranocchia che ha chiamato prima. Chi è la Ranocchia che ha chiamato prima? Ah, un'ascoltatrice. Chi è la? La Santanchè. Ma la Santanchè non è leghista, però. È non di è leghista, no, lei. Io non parlavo della Santanchè, io parlavo quella di prima, la signora che ha chiamato prima. Ah, un'ascoltatrice, vabbè. Antonio, che cosa volevi dire? La Santanchè che vi ha preso per il culo, e voi non rispondete. Quando lei parla, sì, di sto cantante qui che non può andare a Sanremo, sì, perché i testi contro le donne, sì, sì, ma parla lei che aveva sul suo capo che è stato condannato Berlusconi, sì, ma ha proprio la faccia come il culo. Cioè tu dici non può protestare perché uno è stato condannato per furto come Junior Kelly, perché lei collaborava, diciamo, con uno condannato per frode fiscale. Ma come non Berlusconi. Solo è uno che ha insegnato a tutti come si trattano le donne, questo guarda, io su non questo, lo metterei, guardi, sullo stesso piano su questo del cantante. Su questo però devo dirti, no, che c'entra, tutte le persone sono uguali, non è che Berlusconi è diverso da Junior Kelly, punto. Beh, no, tutte le persone sono uguali, no, ogni caso analizzato a sé, perché sennò diventa tutto uguale, e quindi vabbè. Ho capito, Berlusconi non mi pare che non abbia concezione delle donne così negativa, cioè non mi pare che abbia mai fatto canzoni in cui dice di stupro, né mi pare che sia mai stato accusato di stupro, peraltro. O no, Antonio? Ma no, ma ha commesso altri reati. Ma, detto ma che c'entra quello? Quelle donne lì andavano volontariamente, può piacere o non piacere, quando era presidente del consiglio, non era una pratica divertente. Reati, ma paragonarlo all'altezza di quella carica. Reati, scusa, che reati? Gli altri reati che ha commesso. Reati? Uno è stato condannato in via definitiva, sì, allora? E gli altri tutti in prescrizione, ma credo sì, no, che ma più condanne. Tu stai dicendo la Santanchè, tu stai dicendo la Santanchè non può dire via il cantante condannato, eccetera, perché collaborava con Berlusconi. Era con Berlusconi, vabbè, ho capito. Sì. Maria da Rimini, dai, Maria da Rimini, dimmi. Pronto? Sì, dimmi, Maria, dimmi. Volevo dire, io sono d'accordissimo con la Santanchè, prima certo. Di tutto. Ma certo. Tu sei italiana, secondo... scusa Maria, sei italiana? Come, no, sei italianissima. No, non sono italiana, sono straniera. Sei e straniera. Sono, ma e che sono sei? Straniera, straniera cosa? Io sono straniera. Di dove? Io sono del Sud America. Del Sud America, bene. Sì. Comunque, volevo dire che sono arrabbiatissima con tutti gli italiani che si fanno trattare male di questi stranieri che vengono a farseni grandi qui in Italia. Ma chi sarebbero? Chi è che si fa trattare male? Gli italiani che... Io sento che alla sua trasmissione chiamano, insultano a lei, insultano a tutti gli italiani. Soprattutto Parenzo questo... insultano, comunque. Ogni tanto anche me, ogni tanto insultano anche me, per esempio Paco da Belluno mi insulta, signor Paco. No, io chi tratta male gli italiani mi sembra che se merita che le den un calcio nel culo e lo manden di più del fondo del mare. Però scusami, Maria, ma chi è che tratta male gli italiani? Non sono una cosa, non sono tutti uguali, cioè sì. Tratta male gli italiani. Io ho sentito tante volte che gli stranieri insultano brutto agli italiani e le fa male. Perché io sono straniera. Sì. E un'altra cosa che lascia arrivare tutta, io sono straniera e lavoro con dignità. E aprono i porti e arriva tutta quella marmaglia di gente che viene solamente a abusare degli anziani, a rubare gli anziani, a ammazzare la gente, a fare tutto quello che vogliono fare. Io non sono d'accordo con questa maniera. Scusi, lei chi vota? No, soprattutto lei che programmi guarda la televisione. Come? Lei che programmi guarda la televisione? Io quasi non guardo niente del programma. No, ma se no in genere lei guarda molto Rete 4? Sento la vostra, sento la vostra trasmissione che mi ecco, già questa è una risposta. È già questa Radio è una risposta. 24, Radio 24 la sento dalle 6 del mattino al 10. Scusi, signora, ma lei le guarda fa onore, Mario Giordano, ma guarda Mario Giordano, magari Del Debbio, Rete 4, la guarda ogni tanto, vero? Non le conosco. Non la conosco. Strano. Per chi vota no, la prossima? Per chi vota lei? Maria, per chi vota? No, io non voto per nessuno, non sono così, non conosco. Ma chi tanto le piace la della politica italiana? Chi le piace? Salvini, no, forse, veramente eh. Non è che tengo, solo mi fastidia quelle tal sardine che stanno in giro così. Quello le sardine, mi danno fastidio tantissimo le sardine. Quando sta volando quelle storie le sardine. Però dei politici non è che so tanto, non conosco tanto. Non. Vabbè, fermi là. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Imprenditore, progetti per il nuovo anno? Realizzali, i soldi te li dà Credimi, fino a 2 milioni in 5 anni senza garanzie. 5.000 imprenditori lo hanno già fatto, tu cosa aspetti? Vai su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi invece per la tecnologia e la connettività. Io la scelgo per avere tutto, senza compromessi. A gennaio scegli Alfa Romeo Giulietta Sportec con cerchi in lega da 17, vetri posteriori oscurati, schermo touch da 7 pollici con smartphone integration e retrocamera posteriore. Tua da 17.500 euro oltre oneri finanziari. Con anticipo zero. Finanziamento soggetto ad approvazione FCA Bank. TAN 645 TAI GOT 41. Info su alfaromeo.it. I miei risparmi. Interessi praticamente zero. Meno i costi, fa più o meno. Meno. I conti meno. Correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi. Più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più. Da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità per i correntisti tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. La Zanzara. Grande Max. Ciao Rocco. Invitami che tu lì davanti. Sceglie la donna, da te in radio, voglio vedere se hai coglioni. Sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera e me la inculo e mi inculo pure lui. Me lo inculo insieme alla vecchietta. Poi, ma fai schifo, per concludere, per concludere, senti un attimo. Cruciani. Se non la fornisci per la male di Napoli ogni tanto, in quale città? E chi lo usciamo sotto che manna la musica, usciamo di. È stata la latrina di Parenzo che viene pure a Napoli a farsi i vestiti e poi ci critica pure, è stata la latrina. Comunque se non la finisci di parlare male di Napoli, venga a Viale Monterosa e ti venga a sputare in bocca. Hai capito? No, munnezza. Napoli! E sciacquati la bocca prima di parlare male di Napoli. Luta! E fatta una doccia che fio da capo per latrina! E con questo è chiuso! Oh! Abbiamo Porro? Porro non so perché mi candida Presidente della Repubblica, era tutto un suo ragionamento, eccetera. Ma sentiamo. Prima te? Sì, prima se la piglia con Santori, giustamente. Santuzzo, Santori, l'ho detto giusto, vedi? L'ho perso, anche pure Porro. L'ho detto giusto, Santori, per una volta l'ho detto bene. Alla scuola di Antonio Martino, impazzito, peccato. Quel ragazzo lì col cerchietto, che sembra uno studente universitario, che ha 32 anni, studente universitario... Perché? Se a 32 anni sei ancora uno studente universitario, permettetemi di dire una cosa molto semplice, sei un fallito, è un disastro, vai a lavorare, a 32 anni io non voglio più pagare l'università. Giusto, a 32 anni stai ancora all'università, sostanzialmente sei uno che deve andare a lavorare, cioè altrimenti con sto cerchietto da studente, che cerchietto, ma è una roba incredibile, dai, è incredibile. Ma uno può prendere lezioni da Santuzzo, ma infatti non voglio dare lezioni a nessuno, nessuna lezione, non voglio, 40.000 posso prendere lezioni di internet da Santuzzo, ma vaffanculo, non voglio lezioni di internet da Santuzzo, da San Minchia, chiaro, però stai sputando su quei 40.000 che sono scesi in piazza, indipendentemente da Santuzzo, indipendentemente. rotto i coglioni, non prendo lezioni di bon ton, ma non di ti internet lezioni, e di odio, ma non so di che cosa a te, lui, da san ha... minchia, chiaro? Oh, cazzo, ogni volta che sento questa cosa qua mi fa incazzare. Vuole dare lezioni su come stare non sull'internet. Non nessuna lezione. Ma come no? L'abbiamo sentito. Dice prima che è un problema e dice una cosa che dicono anche ma quelli basta, della ma che se Silicon ne occupino Valley. I tecnici che si facciano tecnici, le leggi, non rompa è i coglioni. È un tema politico, Santuzzo, non è un tema sociologico. Ma non rompano sociologico, i coglioni. Dicono è un che tema sono politico. Contro, dicano chiaramente che sono contro la Lega, facciano la campagna elettorale come quello giusto pare, che sia. Quello mi pare e che non già lo rompano dicono il cazzo. Quello mi pare che già lo dicono già tranquillamente. Facciano legittimamente la campagna elettorale contro la Lega in Emilia Romagna, va benissimo, alla grande, facessero quello che vogliono, però non ci rompano i coglioni. Ma non ti rompono le mani, ma perché ti fanno così arrabbiare? Su come stare al mondo, su come comportarsi arrabbiare sull'internet, facciano la campagna elettorale, non rompano il cazzo. E poi dicono a noi, siamo sovranisti, io sapete cosa voglio? Voglio Cruciani presidente della Repubblica! Così finalmente faremo, che ti posso dire, il, come si chiama quel rapper là con la maschera, manco so come cacchio si chiama, presidente del Consiglio di Stato, voglio quel rapper là, quello là con la maschera, no? Quello là che si sono accorti oggi che non va bene, presidente del Consiglio di Stato, ce l'ha sia con Salvini, sia con le donne, con gli uomini, con le donne, questo è il concetto, no? Un'Italia non del politicamente corretto, de più... Ma lui partiva, il ragionamento era questo, in piazza. Ma lui è cresciuto in piazza, la scuola di Antonio Martino, oh, il grande storia, ma chi era se ne un liberale, ma che c'entra, uno non può avere insieme le sue idee, ma che c'entra, ho detto, lui ma era poi, cresciuto alla grande se, scuola di Antonio pensi, Martino, un vero liberale, e allora perché non ce la può avere con le sardine, non ce la può avere con le sardine, me lo trovo il liberale, perché ma che liberale, senti, in piazza c'era pure Concita De Gregorio, senti, qual è il crimine di Concita De Gregorio, senti che cosa dice, è giusto ed è corretto quello che dice, senti. Nella piazza c'era Concita De Gregorio. E così, è come se io partecipassi a una manifestazione di Salvini dal palco, non moderandola, non moderandola, ma leggendo una lettera, cioè condividendo quello che succede in quella piazza, poi me ne ritorno al giornale e faccio il terzo. Ma che cazzo? Ma questo è il giornalismo italiano? Dico solo questo, che io sono non parole ho partecipato a nessuna non, manifestazione su, politica. Che c'entri tu? No, ma, lo dico perché sennò no, quelli poi ma nel senso che non bisogna aggiungere altro, non bisogna. E Maria Giovanna Maglia dal palco della Lega? Ma Maria Giovanna, infatti, Maria Giovanna è legittimamente impegnata in politica con la Lega. No, ma dico, ma il mio amico Nicola Porro, ma non vuole fare la terzista, non vuole fare quello indipendente. Ma dai, su, scusami, c'è un equivoco. Vai sul palco delle sardine. Scusami, che cazzo fanno le sardine? Politica, politica. Aspetta, Concita. Ma dai, raga, ma perché tu esprimi un giornalismo diversi di opinione? No, tu sei dell'area della destra. Ma non sei qual etichettabile destra sul ma partito, però rappresenti l'area della destra. Ma che dici? Ma sei pazzo? Ma le tesi sovraniste. Ma quando mai? Dici mai quella io roba lì. Ma io non sono affatto sovranista. Sei afferente Guarelo, a quella cultura là. Guarelo, ma non ma c'è nulla di male. Non c'è ma quando non mai? Io non sono affatto sovranista di quello che dici. Ma io non sono mai stato sovranista. Concita De Gregorio. Ma come no? Hai votato anche Lega. Ma è legittimo. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Che cazzo c'entra che uno vota una cosa? Ma sei di sinistra. Ma non sono sovranista per niente. No, sono sei progressista? Ma che vuol dire? No, sei dell'area della destra, ma va benissimo. Ma su cose sono più progressista di te. Nessuno te ne fa ma una non colpa. Sono fatto di ma destra. Torniamo ma torniamo alla conci... Ma come no? Vabbè, allora sono di destra. Ma deludi i tuoi allora ascoltatori. Ma come? Non sono loro fatto... ti percepiscono così. Ma chi lo se sanno? Ne frega di come mi percepiscono. Ma lo sanno, ma non tirarti indietro. Non ti preoccupare. Vabbè, allora è così, non ti preoccupare. È così. È così. Ti do ragione. Concita, scrive per un giornale. Tutto, va bene. Sì, sì, faccio come te. Certo, schematizzo. Come fai tu? Concita, no, no, come te. Giusto, nero, bianco, bianco, nero, nero, bianco. Concita, come mai? Io non lo faccio io ogni mai volta che dico il pensiero complesso dici no, non c'è colpa. Non sono sovranista. Assolutamente sì. Io non sono sovranista. Però vabbè, lasciamolo decidere odio alla gente. Sentiamo la gente. La gente che scrive, ascolta, deciderà. La gente, la gente si farà un'idea. Io non sopporto Concita il sovranismo, te lo posso dire. Scrive per un giornale che è Repubblica, vabbè, allora, che è un è giornale dell'area progressista. È imparziale, va bene. No, è ma ti sto dicendo il contrario. Allora, ti sto vuoi dicendo che legittimamente Repubblica è fa un giornale dell'area progressista. Fa campagna per le sardine. Ma non fa campagna. Lo scrive. Ma lo dico. È un giornale di centro-sinistra o no, Repubblica? Ragazzi, vi devo dare una notizia fondamentale. Detenuto di 86 è un giornale progressista. Detenuto di 86 anni evade dai domiciliari e va al night. Questo va premiato, altro che le sardine con Concita De Gregorio. I carabinieri lo trovano in compagnia di due spogliarelliste. Questo giustamente 86 anni, che cazzo deve fare? È evaso dai domiciliari, che non ne poteva più, è andato in un night e l'hanno preso in compagnia di due spogliarelliste. Perché lo dovete mettere in galera? Fategli passare qualche ora fuori, no? Non credo che avrà commesso dei crimini pazzeschi questi qua. Ah, Maurizio da Milano, vai. Maurizio, dimmi, Maurizio. volevo solo dire che i rapper che nascono come antisistema, contro tutto e contro tutti, poi alla fine li trovi nel programma più istituzionale. Questo è un questo è giusto. Maurizio, però le persone questo fa ridere. Questo fa ridere, non c'è dubbio. Le persone cambiano, vogliono guadagnare più quattrini, vogliono affrancarsi. Ma diciamo che è la Sony che lo produce, quindi sì, vuol dire appunto, già finita l'esperienza marginale. Esatto, una grande casa di produzione. Esatto. Una multinazionale, chiamiamola col suo nome, assolutamente, grande, assolutamente. Produce il rapper. Il trapper, evidentemente, hanno ritenuto bravo, perché se no la multinazionale non è che butta i soldi. Infatti, fa un sacco di visualizzazioni, vende un sacco di ma dischi. Quello, però, è normale. Come gli artisti, Maurizio, da strada diventano poi artisti pagati dalle dire, mi sembra Maurizio, normale, no? È assolutamente come dici tu. Cioè, queste persone prima erano contro tutto, contro tutti. Secondo me, molti ci facevano e non c'erano. Magari questo ci è. Ma non è vero, non la musica nasce come antisistema. Però, spesso. Ti ripeto, molti ci fanno e non ci sono, non capiscono manco di quello di cui stanno parlando, è un'altra cosa. Adesso, andando a Sanremo, tutti un po' si istituzionalizzano perché si guadagnano dei quattrini, se più visibilità si entra in un circuito che prima magari combattevano, capito? Francesco da Brescia, dai, Francesco da Brescia. Buonasera, complimenti. Dimmi Francesco, dimmi. Allora, avevo chiamato per la Santa anche per dimmi, veloce, vai, lei, dimmi. Perché la televisione uno la può spegnere, che cazzo, ci mandano quello che voglio. Io pago il canone, ho diritto di poter scegliere. Se i miei figli li voglio crescere davanti a un rapper, io la faccio guardare, altrimenti no. Ma che cosa fai? Guarda, ormai non è che più faccio guardare. Se uno lo vuole guardare, a meno guardare, che non... Ma ho capito, ma a 10 anni, d'accordo, ma se uno ha 14-15 anni, che cosa impedisci, cazzo? Ma quello che vuole a 14-15 anni, come lo facevo io quando ne avevo 14. E allora? Che cosa allora va bene che Amadeus decida lui e faccia quel sì, cazzo che vuole. Ma certo. Anche per una frase che ha detto. Sì, la Santa, che sono fatto solo della propaganda politica adesso. C'è anche quello. Quello c'è sempre. Non lo può spegnere, giusto o no? Vabbè, ciao amico mio, ciao. Allora ragazzi, mi è arrivato oggi il biglietto da visita del ristorante Teodora del signor Polegato, no? Signor Polegato. C'è scritto no comunisti, ristorante Teodora, no comunisti. Cioè, il ristorante, non credo che un comunista ci andrebbe, o comunque uno che fa riferimento alla sinistra. Speriamo però che c'è dalla Guardia di Finanza, più che altro. Però, che no, l'unico che deve andare è la Guardia di Finanza. No comunisti. Sì, parlo con il ristorante Teodora. Sì, io sono un vecchio partigiano dell'Associazione Partigiani e ho visto un vostro biglietto da visita dove scrive no comunisti. Suppongo sia una battuta. No. Come no? Se io voglio venire a mangiare da voi non posso venire perché sono partigiano. No, non è una battuta. Cioè, io volevo prenotare per il weekend un tavolo e non posso farlo. Lei è comunista, se lei dice di sì io non mangio. Certo che sono comunista, e perché non dovrei mangiare? Vabbè, solo perché allora sono comunista? Mangio da altre parti, ci sono tanti ristoranti perché se ne interessa il mio. È perché io vorrei venire a mangiare lì, un mio diritto. È un mio sacrosanto diritto. No, assolutamente no. Io come non è un diritto? Io, nel mio ristorante faccio entrare chi voglio io. Ma non si vergogna? Non vuole lei. Ma si dovrebbe vergognare? No, assolutamente. Ma sì che deve vergognarsi. Lei vada a mangiare in un ristorante di partigiani? Cioè no? Lei... Ma mangiato già abbastanza. Ma no, io mangio dove si mangia bene. Cioè lei dà solo pasti ai fascisti. Ma che discorso è? Da me mangiano solamente i camerati. Nelle terre dove i fascisti hanno mietuto soltanto vittime innocenti, lei non fa mangiare guardi, chi non è fascista. Guardi, ma si vergogni, guardi, ma si vergogni. I fascisti non hanno mietato nessuna vittima, qui abbiamo nessuna vittima, ma come si permette hanno di dire? Senta una cosa, uno ha infibato 30 persone, da un bambino di 14 anni perché fischiava faccetta nera, a una donna incinta solo perché era moglie di un carabiniere, l'hanno infibato nella montagna. Senta, nella guerra ci sono anche casi, però cose buone, il fascismo ha fatto tantissime ma cose è allucinante ha istruito il popolo italiano. Hai istruito il popolo italiano. Ma lei non si rende conto. Parlare bene, partigiani, dovete, siete un'associazione a delinquere voi. Senta, voi Ampi siete un'associazione a delinquere. Ma come si permette? Noi Ampi associazione a delinquere. Ma guardatevi voi fascisti, avete la coscienza sporca. Sporca, voi siete voi che avete le coscienze. E proprio in zone di guerra. Ma lei conosce un po' la storia del Friuli Venezia Giulia? Lei ha sbagliato tutto, parli bene del fascismo. Cioè, è lì a parlare, ha inventato tutte le più grandi invenzioni, ha fatto le riforme, le più grandi battaglie sono state fatte del fascismo. Mussolini, sua eccellenza cavaliere Benito Mussolini. Ma lei può pensarla come cavolo? Ma lei può pensare del mondo, capisce? Lei può pensarla come vuole, ma è vergognoso che lei lasci fuori la gente dal suo ristorante solo perché non la pensa come lei. I comunisti da me non vengono. Questo è vergognoso, è veramente vergognoso. Beh, sono affari miei, la saluto partigiano. Si deve vergognare. Poi dell'Ampi avete già mangiato abbastanza, vergognatevi. Basta finanziamenti, siete un'associazione a delinquere. Siete un'associazione a delinquere. Arrivederci. Si vergogni. Ampi associazione a delinquere. Si deve soltanto i foibatori. Fascisti. Lei dice delle cose false. Falsità. Mussolini ha salvato le persone. Sì, falsità. E lei pure ride. Ma come si permette di ridermi in faccia? I veri assassini sono i partigiani. Lei non si deve permettere a ridermi in faccia. Ha capito? Fascista. Fascista. Cosa vuol permettere? Stia zitto. Stia zitto, Ampi, associazione delle fascista. Fascista. Fascista. Cosa bolle ancora nel profondo del paese, caro David? Cosa bolle? Ma si può scrivere su un biglietto da visita no comunisti? No, si solo può solo per Camerati. E poi si può ricevere la visita prima del fisco, dici, del fisco? No, prima ancora di un'ambulanza e di un personale medico specializzato, e secondo poi una bella visita di quelle macchine verdi con scritto guardia di finanza sopra delle luci blu che velocemente arrivano e verificano se il registratore di cassa ha battuto gli scontrini di quel cazzo di Tiramidux. Questo sarebbe Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Godo come un riccio.